Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Solitudine, dal Teatro Partigiano di Beppe Fenoglio, adattamento Filippo Taricco e Beppe Rosso, diretto e interpretato da Beppe Rosso. Con tutta la buona volontà, io non capisco che ci stiamo a fare in quattro gatti, uno per collina. Perez dice che è necessario. O almeno lo diceva, perché non lo vedo da... Già. Da quanto tempo non vedo Perez? Lui diceva che non potrà dirsi partigiano chi non ha fatto questi giorni, pur avendo fatto il diavolo a quattro tutti i mesi prima e quelli dopo. Diceva che bisogna resistere fino al 31. Quanti ne abbiamo oggi? 9. 3 giorni fa era l'Epifania, ma chi ci arriva al 31? Non ho lo stesso motivo di Perez, evidentemente, no? Lui ci si trova, ci si crogiola nella posizione di sbandato. Io no. E non parlo di morire. Parlo di impazzire, io parlo di nausea. Tutto mi dà nausea. La collina mi fa nausea. Il cielo mi fa nausea. Le strade mi fanno nausea. Anche solo il cercare da dormire è... Bussare a quelle porte nella tenebra più completa e aspettare. Poi finalmente, quando è passato un tempo da farti quasi uscir pazzo, loro ti aprono e senti che tutto il loro intimo, tutto il loro essere vorrebbe urlarti no. E invece ti biascicano un sì. Non hanno più bestie, quasi non hanno più paglia, e tu per il freddo e il duro non riesci a dormire. E senti le donne piangere per la paura di aver sotto il tetto uno che potrebbe costargli il tetto e forse anche la pelle del marito. Nell'ultima casa in cui sono stato, la donna ha pianto tutta la notte, piano, liscia, come una bambina. Io vegliai per tutto il tempo, lei pianse per tutto il tempo. L'uomo un po' vegliava, un po' dormiva, un po' bestemmiava contro tutto e tutti, un po' strapazzava la donna per tutto quel piangere, una situazione che mi fece look forward alla mattina. Smaniare perché vengano mattina quando tu vorresti che fosse notte infinita. E la mattina viene, e come viene? Ti svegliano sempre alle 3. Alle 3. Tu senti l'uomo venire e lui pensa che tu stia dormendo, e per svegliarti ti butta le mani addosso così, dove viene, viene. Ti dice che è maledettamente presto, ma che è bene per tutti che tu decampi. E allora tu te ne esci alle 3. nel pieno del freddo, nel cuore della notte. E giri, cammini per i boschi, per i sentieri, sulla neve, come un'anima a cui non è ancora stato assegnato niente, né l'inferno, né il paradiso e nemmeno il purgatorio. E che fatica d'Ercole far passare il tempo dalle tre al levar del sole. Arrivi a desiderare con tutta l'anima di vedere un barlume di luce, ma non più di un barlume, di vedere un comignolo che fuma, di sentire una voce qualsiasi. Poi finalmente, dopo che sei stremato come se fosse passato il giorno più lungo del mondo, albeggia. E tu? Tu vedi il mondo allo stato di caos. E quanto dura tutto questo? Non si ha idea di quanto duri la lotta tra il buio e la notte nel pieno dell'inverno e che cosa sia. È una specie di lotta tra enormi serpenti, gli uni chiari, gli altri scuri, una cosa da far raccapriccio e nausea. Sono pieno di nausea. Morirò di nausea. Well done, General Alexander. Well done. Generale Alexander, capo supremo delle forze alleate, nel novembre del 44 aveva ordinato ai partigiani di cedere per l'inverno, sbandarsi, ritornare a casa o altrove e riunirsi poi per l'ultima spallata di primavera. Nick, come molti altri partigiani, è solo, sbandato, aspetta la fantomatica data, 31 gennaio 1945, in cui potrà riunirsi con il suo comandante Perez e gli altri compagni. Ma torniamo in capo a novembre, quando Nick era acquartierato nell'ultimo paese prima del fiume, insieme al suo comandante. Tardo pomeriggio. Lontani colpi d'artiglieria. Aula di scuola elementare. I banchi accatastati in un angolo, la cattedra al suo posto, vi siede Perez. Le colline di rimpetto sono coronate di uomini in fuga. Nick, come va dalla tua parte? Guarda, qua ne sta arrivando un altro branco. Ecco. Chiedi di dove? Di dove vengono quelli? Da Neville. Già da Neville. Chiavated boys, come dicono gli inglesi. Bob, e dalla tua? Beh, qui saremo ancora un centinaio. Meno 10 in questo momento. Li fermo? Guardatene bene, Chiavated boys. Perez, ci sono due del paese che vogliono parlarti. Ci siamo. Segretario e mugnaio. Sono proprio loro, ma come hai fatto a indovinare? Falli passare che ci siamo. Prego. Comandante, buonasera. Perez. Buonasera. Veniamo a nome di tutto il paese, Ma nessunissimo bisogno di credenziali, venite. E come mai il parroco non fa parte della deputazione? Veramente noi siamo passati a chiamarlo. Ma lui ha detto che conosceva già fin troppo bene la tua opinione, Perez, è così. È rimasto in chiesa a pregare. Ma non per questo voi vi sentite persi, Avete delle lingue di ferro, io tutti avvocati vi farei a voi. Non scherzare, Perez. Usta, volesse Dio che ci fosse ancora il tempo per scherzare, eh? Capitano, quelli li avremo addosso domani a quest'ora. Prima, dico io. Verso mezzogiorno saranno giù al bivio. Ecco, e tu, Perez? Io? E io sarò qui. No, scusa, Perez, vuol dirmi che tu resisti? Non che resisto, che sparo. Tu spari? No, capitano, non un colpo, per carità, per l'amor di Dio. E credo che sparerò dai 10 ai 15 minuti. E poi? Poi te la batti? Possibilmente. Ma allora cosa spari a fare? Ma guarda, Perez, guarda che quelli sono un esercito, un vero esercito. Ma che cosa spari a fare? A quella, mugnaio, per ammazzarne. Ma quando ne abbia ammazzati 5, 6, 10? Capitano, noi che abbiamo fatto l'altra guerra, beh, noi sappiamo che ammazzare il nemico non serve a niente, non conta niente. Nell'altra guerra, nella vostra, beh, in questa nostra, ammazzare il nemico è essenziale. Perez, ma guarda che anche se tu te ne stai buono, quelli entrano arrabbiati. Se tu gli spari, ma quelli entrano imbestialiti, ma se manco tu li ammazzi un uomo, ma quelli entrano come demoni. E da dove gli spareresti, eh? Da dentro il paese? No. Oh, no, e da dove allora? Dalla miglior postazione, dal ciglione del cimitero. Dal ciglione del cimitero? No, ma non fatevi illusioni, perché ai fini della rappresaglia sarà tale quale io gli avessi sparato dalle finestre del paese. Ma vede, capitano, che lei ci distrugge il paese. Loro lo faranno. No, Perez, no, guarda. Perez, guarda che noi sappiamo che cosa ci aspetta. Ci prenderanno il vino, il fieno, il bestiame e compagnia bella, ma quella, sai, è tutta roba che con santa pazienza si rifà. Ma se tu gli spari? Sì. Io sparo. Ma dai, ma così? Ma senza nessuna possibilità! Ma come? Tanto per sparare! Non mugnaio. Per finire la guerra. No. Non ti meravigliare e ascoltami. Se io domani non sparo, non avrò più l'animo di ricominciare. Ma se io domani sparo, arrivo dritto fino alla fine della guerra, perché non avrò smesso mai. Son belle parole queste. Ma solo per lei? Se ci fosse una possibilità, ma una su 100 di fermarli, di resistere, ma qui non c'è da illudersi. Nessuno li ferma più, capitano. Il coraggio sta benissimo, ma la ragionevolezza anche. Ma non ha visto, capitano, che gli altri partigiani stanno scendendo giù a torrenti, a catafascio? No, per su, non hanno resistito gli altri. Qualcuno l'ha fatto. Guarda il primo giorno. I paesi più arroccati. Guarda che noi siamo informati quasi quanto te. Lo sai che abbiamo domandato, intervistato i ragazzi che scendevano giù al fiume per prendere il traghetto. Sai che ce n'erano di quelli che non volevano fermarsi a parlare con noi. Erano talmente tanto impressionati che non volevano fermarsi per paura di perdere anche un minuto di tempo. Ma dai, hanno resistito il primo giorno. I paesi più arroccati, le colline mediane, hanno ceduto. E vogliamo resistere noi qui, quasi in pianura col fiume alle spalle. Sì, Io domani sparo. Ma è possibile, Perasco, che tu non ti renda conto della situazione? Gli altri partigiani, te l'ha detto, sto scendendo giù a torrenti, a catafascio. Per questo tipo di osservazione c'è Nick a quella finestra. Senza contare, capitano, che anche i suoi mica se ne stanno fermi, Molti hanno già alzato i tacchi. E per questo tipo di osservazione c'è Bob a quell'altra finestra. Ma nessuno dei due spettacoli mi farà cambiare idea. Io domani sparo. Ascolta, Perez, non so più cosa. Io vorrei dirti quello che noi abbiamo pensato nelle nostre teste, anche se sembra che non serva più a niente. Io te lo vorrei dire perché ci siamo scervellati così tanto che te lo dico. E io ascolto. Allora, noi abbiamo pensato che voi potevate partire un'ora qualsiasi di questa sera, eh? Tranquilli, tranquilli, avreste attraversato il fiume. Noi vi avremmo dato tutto, tutto quello che voi ci aveste chiesto. Coperte, viveri, buoi, carri per le vostre cose più grosse, guarda, qualsiasi cosa, E poi una volta che voi siete via, tutto il paese si sarebbe messo al lavoro per cancellare ogni traccia della vostra presenza qui, Guarda, avremmo lavorato tutta la notte, Uomini, donne con torce e candele, stai tranquillo per essere, che domani non si sarebbe visto né trovato niente di voi, né un fazzoletto azzurro, né un bossolo, ma nemmeno più un bottone. Poi verso mezzogiorno, come hai previsto tu, arriveranno loro e noi li aspetteremo così, con le braccia larghe e la testa un po' bassa, che... Beh, lo so, Perez, però sai, questo teatro è necessario. Ma certo. Vabbè, loro ci insulteranno, ci prenderanno in giro con voi, con Badoglio, ci strapazzeranno, ci daranno delle bagasce anche alle nostre donne, ci riempiranno i muri con le loro scritte, ma non c'è niente che possano farci di più. D'accordo, ci prenderanno il vino, il fieno, il bestiame, ma e compagnia bella, ma quella è roba che con santa pazienza si rifà e non c'è niente che possano farci di più. E si fermeranno un giorno o due e poi se ne andranno, è una fortuna che non possano fermarsi qui più di tanto. Ma e appena noi li vedremo oltrepassare il bivio, manderemo oltre il paese il più svelto dei nostri ragazzi a dirvi che se ne sono andati e che voi potete tornare, no? E casomai facciamo anche un po' di festa, insomma, con quel po' di roba che è rimasta, no? Io domani sparo. Ma così sei la rovina del nostro paese! Guarda che dovremmo maledirti! Cominciate a farlo! Dovremmo denunciarti! Ecco, l'hai detto. Allora facciamo così. Prendete buona nota tutte e due di quello che vi dico. Io che mi chiamo Perez, sono in realtà il dottor Piero Ducci e studio e casa a Torino in via Cibrario 10. Ve lo siete scritti nella mente? Ve ne ricorderete? Bene, alla fine della guerra mi denuncerete a un tribunale militare italiano per aver causato la distruzione del vostro paese. A un tribunale militare italiano! Dottor Piero Ducci, via Cibrario 10, Torino. E per favore adesso. Che c'è, Nick? L'ultima telefonata dal comando, poi fanno spiantare la linea. Confermano di tenere la postazione giù al fiume e domani ordinano di occupare il ciglione del cimitero, sparare qualche raffica giusto per onor di firma e poi sganciarci e via. Così loro dal comando sapranno che la Repubblica è qui e agiranno di conseguenza. Stanno mettendo le sbarre alle colline come lo zoo e a noi ci fanno far la parte delle scimmie. Bob, vai giù in paese dal salumiere, ordina un centinaio di sandwich, salame, lardo, quello che c'è, e paga in contanti, almeno stavolta. Nick, tu stanotte farai la guardia al fiume, portati Tom e sceriffo e facciamola bene, almeno stavolta. e questo non cessa di stupirmi. Che i campanili le ore battano sempre, regolarmente. Nel pieno delle stragi, nel bel mezzo degli incendi, le ore battono sempre, regolarmente. Tom, tu di là. Sceriffo, di qua. Ed eccomi di qua. Porca, il freddo. E le orecchie mie mi fischiano in un modo che... Oh, sarà che ho il cervello assiderato, ma qui qualcosa non mi quadra, Per di più, tutti i bottoni del giubbetto si stanno staccando uno ad uno. Partono. Scappano. Che sia un segno, Nick? E piantala, sceriffo. Che c'è, Tom? Un freddo cane, Nick. Specie alle gambe. Già, è più freddo questo novembre dello scorso gennaio, Se tanto mi dà tanto, che cosa sarà mai dicembre? Dicembre? Un branco di illusi. Per dicembre siamo tutti sottoterra. Che pianta, la sceriffo? No, ma se è questione di temperatura, dicono che sottoterra si sta caldi, Contrariamente all'opinione generale. Sai, era da un pezzo che volevo fare un salto a casa mia a prendere un paio di mutandoni lunghi da mio padre, ma... Ora, e chi ci arriva a casa mia? Avessi stanotte i mutandoni di mio padre... Alla salute, come minimo sono tisico. Vorrei essere in un bel sanatorio. Dite un po'. Che anche a voi tutti piacerebbe essere in un sanatorio. Avanti, confessate, tutti. Oddio, e perché proprio un sanatorio? Perché è il posto dove non si muore, ragazzino. Merda. Ha più vita e più marcio dei tisici che è il più sano di noi. Voi riflettete, no? Chi è più un borghese di un bel tisicone nel suo pigiama del sanatorio? E anche ammesso che entrino i fascisti a chiederti i documenti, tu gli fai un bello sputo rosso, sta pur certo che anche un muti si ritiene soddisfatto. Piantala, sceriffo. Nick, quando è che li avremo addosso? Domani a mezzogiorno, dice Perez. Domani a mezzogiorno chi ci sarà? La mitragliatrice Brown? Il solito, Pinco. E se Pinco resta ammazzato? Allora passa a sceriffo. E se anche sceriffo resta ammazzato? Oh, crepa! Ma guarda, no, ma no, tio, si fa così per dire, per prevedere. Allora... E se anche sceriffo muore? Va dritto dritto in paradiso. Sceriffo. Sì, vabbè, ma... Oh, chi va la mitragliatrice Browning? Il primo uomo disponibile potresti anche essere tu. E allora, Nick, mi devi spiegare una cosa. Dov'è e come si leva la sicura nella mitragliatrice Browning? È semplice, incorporata nel grilletto. Il grilletto ha due scatti. Il primo scatto toglie la sicura, poi il secondo fai fuoco. Dio, grazie, Nick. Vabbè, e certo, con te siamo in una botte di ferro, eh? Ma guarda, ma guarda, non sei nemmeno riuscito a sceglierti il nome di battaglia, figuriamoci con la mitragliatrice. Ma dico io, uno si chiama Tommaso e come nome di battaglia si va a scegliere Tom, con tutta la possibilità che uno ha, eh? Ma come si fa, eh? Chi va là? Dove? Quelle ombre, Nick, chi va là? Dove? Di contro la pioppetta, io sparo, alto là, io sparo! Non sparate, siamo dei vostri! Di che nostri? Prima divisione! Ora veniamo! Uno solo! Battendo le mani! Chi sei? Ehi, ma avrei sentito nominare mille volte, no? Sono Drago di Montelupo. Ehi, ragazzino, spegni quella torcia. Chi ti crede di essere per buttare la luce in faccia a me? Eh? Oh, ho bisogno di sapere la strada per il traghetto. Da dove vieni? Ah, o mi stai prendendo in giro? Da Montelupo, no? La strada per il traghetto. Quanti uomini sono con te? Ma guarda, una trentina meno 5 o 6. Morti? Ma che? Ma li ho persi per strada, pensavano loro di cavarsela meglio da soli. Io non so, guarda, c'ho la testa che mi gira come una trottola. Dai, dammi la strada per il traghetto, se la conosci. Ora te la mostro. Ma un po' hai resistito. Ma parli sul serio? Ma sono 10.000 e hanno i cannoni, quelli li avrei sentiti almeno, no? Ma guarda che non è tanto l'artiglieria a farti uscire il pazzo, è il loro numero. Ma dove hanno preso tutti quegli uomini? A un certo punto vedi i crinali popolarsi di loro. Oh, uno spettacolo. Io me lo sono goduto stamattina, tu te lo godrai domani mattina presto e non te lo voglio nemmeno anticipare. Ma vedrai su tutte le creste spuntare i loro elmetti come tanti funghi, velenosi naturalmente. Dimmi la strada per il traghetto. Ehi, dimmela bene, eh? Ci mancherebbe soltanto che mi perdessi. È semplice, portati su quella strada, la segui fino in fondo, arrivi al fiume, là c'è il pontone. Il pontone mica è scassato, il cavo tutto a posto per ora. Bene, io... Non è voi? Cioè voi altri non passate? No, non dirmi che state qui ad aspettarli. L'ordine del comando è di presidiare il passaggio al fiume. Ma voi siete pazzi? No, è che siete soltanto scemi, perché non li avete ancora visti. Ma io che li ho visti vi dico, non perdete un minuto e passate senza perdere, mollate tutto. Magari più tardi. Oh, fate voi, eh? Io vi ho avvertiti. Voi mi avete insegnato la strada per il traghetto? Io vi ho avvertiti di quello che so. Siamo pari. Noi siamo proprio scemi. Oddio, come siamo scemi. Siamo tanto scemi che qui. E pianto la sceriffo. No, sai, c'è il fiume che mi sta cantando una bella canzoncina. Che... Sì, Dio, che cosa dice, Passami, se non sei scemo, passami, adesso l'ora passami e non tardar. E pianta la sceriffo, no? Sai, Nick, il bello è che noi è 2 mesi che ci secchiamo l'anima qui per far la guardia al traghetto, adesso che è l'ora di passarlo per salvarci la pelle, no, E stiamo qui ad indicare la strada agli altri. E piantala, ma piantala tu con questo, piantala! Ma guarda che mi sembri un sergente dell'esercito buon'anima! Ma è possibile che un ragazzo intelligente come te non sappia dire altro che piantala, piantala, piantala, piantala? E allora ti dico, e non ti dico che stavolta gli scemi se la caveranno meglio dei dritti, ma stavolta ti dico che i dritti non se la caveranno meglio dei cosiddetti scemi, perché stavolta è la gran volta buona che ce ne sarà per tutti. Sì, signora. Lei è di qui? Sì, cosa vuole? Cosa cerca? Mio figlio partigiano. Sa, non aveva ancora 18 anni. Vengo da Bra per cercarlo. A piedi? A piedi? Ma qui... Qui voi eravate pieni di partigiani. E ci conciavano così se non fossimo stati pieni di partigiani, eh? Guardi anche lei, sotto i suoi piedi si vedono ancora le carreggiate dei cannoni tedeschi. Ma qui avevate Badogliani o Garibaldini? Ah, beh, qui tutti Badogliani. Allora forse sono sulla buona strada. Ma forse mio figlio era proprio qui. Stava proprio qui, lei l'avrà conosciuto e l'avrà incontrato 100 volte. Guardi, signora, erano tanti, No, ma è un ragazzo di 18 anni, ma già ben formato come un uomo. È un ragazzo speciale, sa, con la faccia allegra, con il ciuffo. Signora, le ho detto che erano tanti, ma forse se mi dice il suo nome... Boh, chissà. Ma Tommaso è il suo nome di casa? Il suo nome vero? Ah, ma signora, io ho bisogno di sapere il nome di battaglia. E non lo so io il nome di battaglia. Allora, guardi, noi le conoscevamo soprattutto per il nome di battaglia, sa? Ma possibile? È un ragazzo speciale con una figura che rimane impressa. Aveva la faccia sempre allegra, il ciuffo. Sa, non ha ancora 18 anni. Li compie il mese prossimo. Signora... Mi spiace, ma non poteva mandare suo marito a cercarlo. Mio marito è ancora troppo giovane. Come si mette per strada, quelli lo arrestano. Io invece, attraverso tutti i loro posti di blocco, si figuri che nel paese precedente ho attraversato la loro colonna. Povera donna, io non so come aiutarla. Senta, mi dica una cosa. Nel paese successivo erano sempre Badogliani? Ah, Badogliani in quello e in quello ancora dopo, eh. Allora, grazie dell'informazione. Che cosa avremmo mai fatto noi per mettere al mondo dei figli che abbiano 18 anni ora? Preghi anche lei, che lo ritrovi vivo. Signora, signora, venga qua. Ma entri in casa. Ma entri in casa a riposarsi un attimo. Ma venga a bere un mestolo d'acqua. Venne gennaio e cadde finalmente la lieve, fresca, soffice. Tutto il mondo collinare candeva di abbondantissima neve che sorreggeva come una piuma. Assolutamente non sopravviveva traccia di strada, viottolo, sentiero. Le case tutto intorno indossavano un funny look di lieta accettazione del blocco e dell'isolamento. Pareva un giorno del tutto estraneo, stralciato alla guerra, di prima o dopo essa. Yes. Dio per il verbo. Ecco, e rieccoti di qui, sceriffo. Oh, ma anche con me stesso mi chiamo col nome di battaglia. No. Eh no, voglio fare un esperimento. Sceriffo? Domenico? Domenico? Non mi sento più come Domenico. Ma guarda che... E devo chiamarmi sceriffo se voglio sentirmi e girarmi verso me stesso. Sono davvero un vecchio partigiano. No, ma qualche cosa del genere, certo, succede anche ai frati, ma per forza, quando i frati, quando prendono la tonaca e cambiano nome, dopo come si chiamano? Come si sentono? Si chiamano col nome precedente o col... Se piantala, sceriffo, piantala. Dai un'occhiata alla valle, no? Rastrella la valle con gli occhi. Dio, madonna, guarda che c'è. C'è un riverbero che. Se il sole se ne stesse calmo, la neve è così bianca che vedrei uno scarafaggio fascista a un chilometro di distanza. Ma il sole riverbera da matti che non riuscirei a vedere nemmeno un plotone a 10 metri, no? Sole fascista! No, è che sono debole. Sono stanco. Non mangio da ieri mattina. Cosa ho mangiato poi ieri mattina? Un bel bicchierone di grappa. Era che sti contadini un pezzo di pane che un pezzo di pane da darti non ce l'hanno, ma un bel bicchierone di grappa, quello sì. Ho vissuto d'ubriaco tutto ieri. O era un altro giorno. E ho perso completamente la cognizione del tempo. Guarda, a ben vedere, non sono nemmeno sicuro che oggi sia davvero oggi. E se oggi fosse domani? E se... Pianta lo sceriffo con queste storie. Dai un'occhiata di sicurezza alla valle, no? Ecco. E chissà che ora è. Ogni tanto sento le campane, ma le orecchie che mi ronzano così tanto che ma riesco mica a contare i rintocchi fino alla fine. Guarda, là in fondo guarda, c'è un campanile col quadrante proprio rivolto da questa parte. Ma che scherzo, con questo riverbero è più facile vedere Padre Eterno che quelle lancette. Te ne fai poi di sapere l'ora? No, mi sarebbe piaciuto immaginare che cosa sta facendo mia madre a quest'ora, ma se non so l'ora come faccio a immaginarmi? Lavora, Questo. È fuori discussione, però, sai. Mi sarebbe piaciuto proprio immaginare precisamente che lavoro fa. Se cucina, se lava per sé, per la padrona, che ne so. Se rammenda. Ma che cosa avrà mai da rammendare? Faccio tutto il sedere congelato. Però me ne è rimasto di calore in corpo. Guarda, guarda che bel buco ho fatto con solo calore da sedere. Non ce la faccio più. Non ci resisto più. Guarda, io ora mi muovo. Mi muovo, dove vado? Cosa posso fare? Io con il freddo e la fame ancora lo so dire, ma con la solitudine io non ci resisto più, non resisto più, io devo vedere gente, devo parlare con qualcuno, io voglio vedere gente, capito? Ma vabbè, potrei andare a trovare un mio compagno, questo. Il più vicino e il meno lontano è Bob. Guarda, so precisamente dove sta nascosto, vive in un buco come una marmotta. È un'idea quella del buco, Ma a me non va. No, mi sembrerebbe già di essere nella fossa. No. Io voglio avere il cielo sopra la testa. Anche se questo cielo non è che sia poi granché. No, non vado a trovare Bob. No, ho pure paura che sia pieno di scabbia. No. Ma certo, ma io vado Benevello. Vado a trovare la sartina di Benevello. Ma guarda che così gentile. E poi, ha una voce meravigliosa, Bella non è. Ha le spalle troppo strette, i fianchi troppo larghi, anche un'ombra di baffetti sulla bocca, Ma sì, io vado a trovare la sartina di Benevello. Ha una voce che nemmeno le studentesse più fini, Ma io starei delle ore e solo mi dicesse buongiorno. Buongiorno. Adesso ci vado. No, è solo che devo sapere se è un'ora decente, posso mica... Ma tra poco, guarda, si vedranno quelle lancette dell'orologio, se non è un'ora decente. Aspetto. Aspetto nascosto dietro quel fico selvatico che c'è nell'ultima curva del paese. Anche se. Ben vedere, guarda, che anche se io mi mettessi sulla collina più alta con le braccia in croce, tutti, anche i contadini più esperti direbbero. Guardalo, un nuovo albero. Abita giusto fuori il paese, non devo nemmeno attraversare tutto il paese e sentire le porte e le finestre sbattere come tante rivoltellate i cani, latrarmi dietro come se portassi la peste. No, lei abita giusto fuori. Ma avvicino con tutte le cautele, come se mi avvicinassi a un posto di blocco. E non voglio nemmeno che la gente spettegoli. È spettacolo anche di questi tempi, la porca gente. No, dai, adesso io ci faccio, mi muovo e vado. Cosa gli dico? Che sono venuto a fare quattro chiacchiere con lei e lei per amore della causa mi deve sopportare, ma non va, no. Dai, io mi devo presentare con una necessità, con qualcosa di... Sceriffo, ma scopo qualcosa per la sartina, insomma. Non ha da essere una cosa molto intelligente, Ma intelligente o scema, lei capisce che è un pretesto. Sì, però sai che sia un pretesto che la faccia sorridere, non ridere. No, qualche cosa... guarda, signorina, ho perso tre bottoni al giubbetto, me li riattacca? Benissimo. Ma il mio giubbetto non ha più un bottone che un bottone. Me ne è rimasto giusto qualcuno sulla braghetta. No, ma lì non è il posto più adatto. No, non voglio che lei pensi minimamente che io sono uno sporcaccione, dai. Voglio solo parlare un po' con lei, avere un po' di compagnia, qualcosa. Certo. Ma prendo il coltello, mi faccio uno squarcio nel giubbetto, poi dico, signorina, mi rammenta questo strappo? No, lei non ci crederà, ma da questo strappo entra uno spiffero da polmonite fulminante. Perfetto. Cioè, no, poi mi tolgo anche le armi, no. Le nascondo per un'oretta. Voglio andare disarmato. Sarò anche più leggero, lei. Insomma, lei sarà più tranquilla. Io spero che apprezzi il mio pensiero. Oh, ma per andare da lei mi sono disarmato. Anche per non comprometterla, no? Nel caso. No, ma non può succedere. Dai, il fascista più lontano è a 6 chilometri in linea d'aria. No. No, mi presento così, disarmato. Spero che lei, insomma, colga il mio pensiero, no? Insomma, che lo apprezzi un tantino. Sono io, le ho fatto paura. C'è bestia che sono. E no, devo presentarmi diversamente. No, che sarebbe stato lo stesso, eh? Ma no, dai, no, che non era lo stesso. Io sono entrato di colpo. Le facevo meno colpo, appunto. Però io. E spero che le sia passata, eh? Mi dica che l'è passata, su. Sì. Dia qua, la legna? No, ci penso io, a me piace. Oh, mi piace dar da mangiare al fuoco. Senta, dobbiamo fare economia? No, metta. L'unica cosa che non scarseggia ormai è la legna. Ah, ecco. C'ho un po' la faccia del cretino, eh? Ma cosa dice? No, che qua il calduccio comincia a fare il suo effetto, sto quasi fondendo. Solo che quando uno sta così bene non può fare a meno di avere un po' con la faccia del cretino, no? Ma cosa dice? Sì. Cosa dice? Mi posso sedere un attimo? Beh, la sedia è lì che non fa niente. Bassa, eh! Oh! È della mia lavorante, una bassina ma molto brava. Oggi è a casa per il mal di gola. Ah, da sola, lei. No, ma sa, io mi immaginavo che lei non lavorasse da sola, sa? Sa, in giro si dice che lei ha del lavoro fin sopra gli occhi, eh? E un partigiano si interessa di queste cosette? Perché no? Voglio dire, sa, noi partigiani ci interessiamo un po' di tutto. A volte ci annoiamo a morte, e allora ogni discorso che ci capita a tiro è sempre interessante, è molto interessante, ecco. Cosa sta facendo? Un corredo. Ah, per una sua amica che si sposa, è certo che bisogna proprio essere pazzi, a sposarsi di questi tempi, eh. E perché? E qualcuno deve pur pensare, no, a non lasciar finire il mondo. Ah, già, a chi? Non lasciar finire il mondo. No, allora io guardi, lascio perdere la cosa per la quale sono venuto, tolgo il disturbo. No, lei l'avrà capito che io sono venuto per fare dello straordinario, no? No, ma glielo faccio lo stesso. No, cioè, se lei doveva lavorare ad altro, ma a un corredo, scherziamo. No, mi faccia vedere di cosa ha bisogno. Non me lo vede addosso? Uno strappo di quelli, eh? Lei non ci crederà, signorina, ma da questo strappo mi entra uno spiffero che mi darà la polmonite fulminante, eh? Lo credo bene, ma glielo faccio subito. Debbo togliere? Sì. No, guardi, perché sai, lo porto da mesi e mesi, giorno e notte, quindi non si scandalizzi, eh? Ma pensi un po', solo che no, del filo dello stesso colore della stoffa, o che gli si avvicini molto, un po', e quindi il rammendo si noterà molto, eh? Ah, ma pensi un po'. Come se l'è fatto? Il giubbetto? No, lo strappo. Ah, con lo strappo. Sì, veramente quello strappo lì c'ha una storia. E non me la dice? Veramente, sa, è una storia che per una signorina come lei non è che... Ah, no, per carità, allora no. Non è che sia indecente, no, tutt'altro, anzi, solo che è una storia un po' dura, nel senso che... Ma io gliela racconto lo stesso, in uno stile adatto a lei, eh? No, perché se dovessi raccontarlo a mio compagno userei tutt'altro stile. Allora, con lo strappo... Me l'ha fatto un ramo con delle spine lunghe, un dito e affilate come pugnali. Un ramo spinoso che a momenti mi costa la vita, eh? Ah, sì? Quando? Quando? Ieri mattina. Ieri mattina giravo per il mio versante, il versante che è qui proprio di fronte a lei, no? Beh, facevo un po' di pattuglia per conto mio, no? Ah, beh, certo che adesso che siete sbandati dovete fare molta attenzione, eh? Ah, io facevo più che attenzione, solo che loro mi sono sbucati tac dietro da un'altra parte, no? Chi? Ma i soldati! Oh, che scema! E quanti erano? 5, 6, 10, non sono riuscito a contarli bene per via dell'intrico dei rami, poi sono mica stato tanto lì a contarli bene, eh! È scappato! Beh, ma uno contro 6... con una pistola, no? Magari avessi avuto lo Sten. No, ma cosa dice? Ma ha fatto benissimo. E loro? E loro mi hanno gridato arrenditi. Ma io sono stato pronto e ingranato la marcia, cioè sono partito come un treno, eh. E lo credo bene, no? No. Oh, signorina, no. Oh, mica così facile, sa, mica così semplice. Guardi che il grido arrenditi fa gelare sangue nelle vene, eh? Ci sia tutti, nessuno escluso. Solo che c'è quello che riesce a scongelarlo, tac, parte e si salva. Quell'altro che invece rimane congelato ed è fottuto, è spacciato, ecco. Ah sì? Il sangue? Si gela il sangue nelle vene. Come l'acqua sull'aia la notte di Capodanno. Io potrei raccontarle una storia, signorina, sa, di un mio compagno, un certo Tom, un ragazzino, non aveva ancora 18 anni. Sì? Beh, questo Tom viaggiava solo soletto in una valletta senza rendersi conto che su un crinale a 300 metri un gruppo di soldati l'aveva avvistato e lo stava seguendo. E quelli gli urlano dietro, arrenditi, con un megafono. E a Tom, paf, si gela il sangue, come a tutti, no, del resto. Solo che Tom non è più riuscito a scongelarlo, è rimasto lì imbalsamato. Ma immagini, e quelli hanno avuto tutto il tempo per scendere quei 300 metri e beccarlo lì in piano che... Ma nemmeno loro credevano ai propri occhi, capisce? A Tom non si mosse più né un piede né una mano, perché era rimasto congelato. Si riprese soltanto quando gli altri... gli misero le mani addosso. E l'hanno ammazzato. Non si chiede nemmeno. Lei invece... Ah, no, io sono stato un attimo in folle. Poi ho ingranato la marcia, e che marcia, eh? E loro dietro, sparandole, come no? Certe raffiche corte che, ma avvelenate che spaccavano come stecchini dei rami due volte questo braccio, eh? Ieri? Ma strano che non si sia sentita se c'è stata una battaglia simile. Non si è sentita. Ma perché ero finito sull'altro versante, sa? E poi era nel bosco. Il bosco è incredibile come trattiene i rumori, per quello. E poi? Beh, e poi io, li ho perduti. Io viaggiavo i 60 all'ora, Ma lo strappo come se l'è fatto? Proprio nel mentre che mi sparavano, sa? A un certo punto ho sentito una raffica e mi sono detto: questa porta giusto tuo nome e indirizzo. E sono cose che si sentono, sa, signorina? No, almeno noi vecchi partigiani le sentiamo, ecco. E allora tac, ho scartato. E scartando sono andato a finire contro quel ramo dalle spine lunghe un dito affilate come pugnali. Solo che poi ho passata la raffica, ho cercato di ributtarmi sulla strada, ma mi sono sentito impigliato. Deve essere stato tremendo, no? E allora tac, ho forzato, e per fortuna che forzando la spina ha ceduto e mi ha fatto lo strappo, perché se non cedeva e che mi obbligava a un secondo strappo, allora... Maria Vergine. Comunque, ecco, lo strappo è sparito. E come è sparito lo strappo? Io spero le sia sparito anche il brutto ricordo. Ah, il brutto ricordo, signorina, ma... Dopo 3 minuti chi se ne ricordava più? No, ma veramente, io appena ripresi fiato me ne dimenticai. Beh, certo che voi dovete essere dei ragazzi speciali, perché se non foste speciali non fareste il lavoro che fate. Ah, sì, signorina, certo. Ma qui ne mancano tutti i bottoni. Lo so. Sì. Solo che lei si è già data da fare tanto, si è già disturbata tanto che... No, ma i bottoni sono fondamentali, a chi lo dice? Guarda, io sono dozzine di notti che marcio contro vento, sa? E mi tengo il giubbetto con una mano, il porco ventaccio passa lo stesso, per giunta mi gela anche la mano. Non ne vada troppo matta, 2 bottoni, solo qui dove passa il porco ventaccio, non di più. Ma 2 bottoni qualsiasi, anche 2 bottoni schiacciati. I 2 più brutti che ha. Perché? Perché mai i 2 più brutti, Sei fottuto, partigiano! Io non sono un partigiano. Ti piacerebbe, E se non sei un partigiano, che cosa sei? Niente, ma io non sono niente. Ti piacerebbe essere niente? Quanti ne hai ammazzati dei nostri, Te la stavi spassando con la tua bagascetta, guarda, è svenuta per la paura. Sai che ti facciamo ora? Ehi, no, non potete farmi niente, mi avete trovato disarmato. Ah, eri armato, ci hai visti arrivare e hai nascosto l'arma. No, io mai avuto armi, no. Non so che cosa siano le armi, io. Adesso vedrai che ti facciamo. No, ma voi cercatele. Se le trovate, vi autorizzo io a fucilarmi. Sergente, cerca bene. Oh, se le trovate, vi autorizzo a fucilarmi. Sporco assassino. Guarda, troverete soltanto aghi e ditali, Sergente, cerca bene, no? Ah, ecco, l'abbiamo trovata. Bastardi. Ma quella è vostra. È una Beretta. A chi l'hai rubata? Bastardi! Adesso sì che sei fottuto, sei morto! Bastardo! Fuori sull'aia! Bastardi! Fuori! Bastardi! Bastardi! Bastardi! Questa chiesa è una Siberia, lui E lui è già più duro del marmo. Oh, non è che l'abbiamo spostato un po' troppo presto, Ma è molto alle due. E quando l'ho visto in chiesa erano già le quattro suonate, Ma guarda, sto qua. Ma allora tu non hai sentito che cosa ha detto al paese, no? Quel Barabba tenente o capitano che fosse? Ah no, l'ho sentito, sì. L'ho sentito con le mie orecchie. Allora, ma che cosa ha detto? Ha detto di lasciarlo dov'era fino a domani a mezzogiorno, di non toccarlo nemmeno con un dito, prete compreso, e che loro sarebbero tornati all'improvviso e che se l'avessero trovato spostato avrebbero dato fuoco al paese. E allora? A me son cose che si dicono per farcela far sotto a noi, ma non tornano mai veramente a controllare. Sì, non tornano mai. Ci voleva ancora questa, ma anche quella sartina. Non vorrei dire, ma quella ragazza... Comunque è tutto a posto, tutto a spese del comune. Solo che io dovrei fare delle registrazioni, dovrei sapere qualcosa di lui, non se ne sa niente. Scusa, Mugnaio, vienilo a vedere, guarda, l'hanno ammazzato come noi ammazziamo i nostri conigli. E chi l'ha visto meglio di me, eh? Voi due sappiate che sono io solo che l'ho spostato. Di peso me lo sono caricato sulle spalle e di peso l'ho portato fin davanti alla casa del falegname. No, se è così. Ma certo che è così. Ma guarda, e con questo sono nove, contando solo quelli tra qui e il fiume. E te li sei caricati tutti tu. E che cosa ti passa per la testa quando li alzi? Ecco, se vuoi saperlo. Mi figuro di buttar via un sacco di grano che purtroppo ha verminato. E non è mai finita, Oh, penserete mica che questo sia l'ultimo? Speriamolo. Ma sperare da donne? Noi uomini dobbiamo prevedere e calcolare. Io che non spero né dispero, ma che ho studiato la situazione, io vi dico che tutti questi ragazzi che sono sulla collina cadranno uno per uno come tanti passerotti da sul ramo. Come passerotti da sul ramo? No, tenete bene a mente, quello che vi ha detto il mugnaio. Sì, comunque qui è tutto a posto, tutto a spese del comune, È solo che non si sa niente oltre il suo nome di battaglia. No, ma io devo fare delle registrazioni, ho bisogno di un cognome, di un paese, di provenienza, qualche cosa. Aspetti, segretario, che qui c'è un suo compagno che l'aiuterà. Nick. Ecco, vieni che c'è il segretario che c'ha bisogno di scrivere. Non posso aiutarla, segretario. Non so quale fosse il suo vero nome. E nemmeno il paese di provenienza. Parlava un accento astigiano, tutto qui. Faccia così, segretario, intesti la pratica al partigiano caduto sceriffo, poi quando ci riuniremo, io o qualcun altro, verremo a dirle meglio. Allora farò così. E io me ne vado perché ho ancora tanto da scrivere che... Segretario, io vengo con lei. Nick. No, ti voglio dire una cosa. la ragazza, la sartina, non c'entra niente, chiaro? No, non c'entra niente. No, ma siccome a sceriffo è successo da lei, e quando succede così, per via della natura delle donne che a volte si innamorano d'un nemico e le si fanno talmente amiche da... Oh, ma hai capito, no, Nick? Qui le cose sono andate a finire in morte, ma da quel punto di vista, pulite pulite, No, nessunissimo sospetto per la ragazza. Bene, anche, sai, per tappar la bocca a qualcuno, anche non dei vostri che ci volesse ricamare sopra. Nessunissimo sospetto, anzi, mi spiace pure per lei. Ma guarda, dai, del minimo. Guarda che quella donna avrà la scena davanti agli occhi finché campa. Ma lo sai che ha le convulsioni e non sappiamo come fargliele passare? Nick, dammi ascolto. Leviamoci di qua, eh? Tanto qui c'è Dio che lo guarda. Tu verrai a casa mia, mangerai bene per una volta e senza tenere sempre le orecchie dritte e il cuore in gola che non ti lascia nemmeno passare il boccone, no? No? Tu sai che sentinella ho io nel mio in cane lupo, ma appena arriviamo lo sguinzaglio. Arrivo subito. This rail service will allow only people between that area by fax, Doctor. At the meeting Tuesday to approve a new government, as Rostov reports from Jerusalem, U.S. officials have said that they will not issue a roadmap for resolving the Israeli-Palestinian conflict until... Ma come ti tagli il salame? Cosa te ne fai di quelle fettine trasparenti? Taglia delle fette grosse un dito. Ma un dito dei miei? Vorrei mica fare economia a casa del mugnaio, Dio non voglia. Quindi tira giù senza pensarci. C'è una cosa, Nick, che non t'ho mai detto. Radio? Ti dicevo che c'è una cosa, dimmi. Radio! Ah, no, mia moglie, gli piace la musica, sempre a... Allora, c'è una cosa che io non ti ho mai detto, che Nick, non so nemmeno io perché. Oh, tu sai che io ero buon cliente di tuo padre? Commercianti come tuo padre nel nostro ramo si contano sulle dita di una mano. Bisogna dire che io stimavo lui quanto lui stimava me. Dovevi vedere come m'accoglieva tutte le volte che gli capitavo giù in negozio. Anche tua madre, Per tua madre è un centesimo, ma i discorsi prima o dopo gli affari, mai visto donna più umana. Tu queste cose mica le puoi sapere. Perché le 100 volte che ci sono andato in negozio, Nick, io non ti ho mai visto. Di un po' che non ci hai mai messo piede. E tua madre me lo diceva, lui è per studiare, diceva. Lui con il negozio non c'ha niente da spartire. Mi ricordo che invece io gli rispondevo: è il negozio che c'ha da spartire con lui per via del pagamento degli studi, no? Perché mi pare che tu studiassi da professore, no? Ancora. Professore. No, io invece sono ignorante. Ignorante sono nato, ignorante creperò, e del resto come si fa? Ma come si fa a essere un po' istruiti in questi posti selvaggi? umanamente quasi impossibile, dai, l'avrai visto anche tu le mille volte. A che livello è la gente di qui? Beh, io sono uno di loro, Solo che sai, io alla ignoranza mi ci sono ribellato. I risultati non si saranno visti, ma sappi che la ribellione è quella sì. Basti dirti, Nick, che finché è arrivato la corriera, io, povero mugnaio in questo deserto, sono sempre stato abbonato a due giornali tutti i giorni. E uno lo leggevo al mattino e l'altro me lo leggevo al pomeriggio, tante volte di notte, tac, me li rileggevo tutti e due, su dall'intestazione fin giù al cosiddetto direttore responsabile, ecco. No, questa è solo l'introduzione al discorso che ti voglio fare. No, te l'ho tirata un po' in lungo per farti capire che non sono proprio ignorante, insomma, e che tu prenda questo discorso con una certa considerazione, perché oltretutto viene dal cuore, La minestra, ecco. La minestra viene o non viene? Ecco che la che viene. Non viene. Buona, un po' dolce. Ma sai, oh, il sale non lo si trova nemmeno a barattarlo in oro, Nick, non far caso alla mutria della mia donna, No, non pensare che ce l'abbia con te o con i partigiani in genere, anzi, è che è proprio fatta così. In vita sua non ha mai saputo che cosa sia un sorriso. Ma cosa dico un sorriso? Un sopracciglio liscio. Basti dirti, Nick, che a me, che sono suo marito da più di 20 anni, non ha mai fatto vedere il bianco dell'occhio. Allora, dunque. Hai visto cosa è successo, sceriffo? Beh, ma come è successo, sceriffo, poteva capitare anche a te, Con l'unica differenza che tu non saresti andato a farlo scemo dalla sarta, ma... Però poteva succedere anche a te. Una questione di pura fortuna, no? Ecco, ma allora, Nick, se è fortuna, tu potrai averne ancora una volta, ma dopo un po' la fortuna si consuma. Ma entro il 31 tu l'avrai consumata sicuramente, perché io ti dico che tutti quanti siete su questa collina, cadrete uno come dopo l'altro come tanti passerotti da sul ramo. Ma perché? Girare ancora armati, dai, a battere i denti, a patire la fame, ma sembra proprio che lo vogliate, cadere come tanti passerotti da sul ramo. Ma dammi retta, Nick, la tua parte, ma tu l'hai fatta, ma la tua coscienza è a posto, ma... Molla tutto e scendi al piano, non per consegnarti a Dio vieti, anche se ma sarebbe anche troppo tardi, ma scendi, ma un ragazzo con una famiglia come la tua alle spalle, ma non vuoi che trovi un posticino dove star nascosto fino alla fine della guerra, A godersi il calduccio, mangiare, bere, e casomai anche qualche volta una ragazza che ti venga a trovare, di fiducia, l'unica che conosca il tuo indirizzo oltre tuo padre e tua madre. Fermo, Nick, posa l'arma, Nick, posa quel fucile, fermo, non è un allarme, Lupo! Come mi ascolta, no? Guarda, io conosco la bestia, fa così non perché c'è un pericolo, ma perché ce l'ha con se stesso. Ma guarda, è un cane che non si può soffrire, se mai potuto soffrire. Ma guarda, io non mi stupirei di uscire un mattino sull'aia e trovarlo impiccato alle sue stesse zampe. Però, come sentinella non ce n'è, Allora, tornando a noi, Nick, mai capito? È scritto, se no. Cadrete come tanti passerotti da sul ramo. Ma mi spiace per tutti, va da sé. Ma tu sei l'ultimo a cui vorrei fare un servizio come ho fatto a sceriffo stamattina. Ma loro vi ammazzeranno tutti. I mezzi li hanno. Per salvarvi in qualcuno bisognerebbe solo che gli mancasse il tempo, ma se Dio vuole che abbiano anche quello. Dai, ma lo saprai meglio di me, no? Dove... Oh no. Lo sai a che punto sono gli alleati? No, ma io sì, io che sento tutti i giorni in Radio Londra, ti dico che sono in Toscana piantati come sassi nel fango e nella neve fin qui. E quando ci sarà il disgelo non potranno ancora muoversi, perché bisognerà aspettare che il terreno, sai, si rassodi. Calcola quindi, Nick, che si muoveranno entro 2 mesi, e in 2 mesi quelli hanno tutto il tempo per... Cosa c'è? E dovrei essere io a portare la notizia a tua madre? No. Guarda, e poi c'è una cosa che mi sorprende. Ma ti giuro, mi sorprende che un uomo con la testa solida come tuo padre non abbia ancora preso la strada per venirti a cercare. Guarda, questa cosa è come un chiodo che nella testa e non cessa di sorprendermi, capito? Ma che pro? No, dimmi, cadere come tanti passerotti da sul ramo, no? Ma dopo il disgelo, arriveranno gli alleati, ma quelli basta e avanzano, è per dare il colpo finale. Ma quelli vincono come vogliono, senza offesa, Nick. Quelli vincono con voi o senza di voi, o anche se voi stesse dall'altra parte. Quindi, ma perché? Non capisco perché morire per una vittoria che non dipende da te. Una vittoria che verrà da sola. Ma ti sembra onesto questo? Ti sembra giusto, no? Umano, questo discorso che ti sto facendo. Sì, e beh, allora, io domani sono pronto a scendere in città per contattare i tuoi genitori perché predispongano, non per un nascondiglio. Grazie per la minestra. No, me ne hai già abbastanza. Ne avrò per 2 giorni. Signora, grazie di tutto e mi scusi per il disturbo. Vabbè, ma per il mio discorso. Cioè, la risposta, no? Al mio discorso. No. Ma tu sei una normale. Ma che? Sono un partigiano. Vieni qua, Nick, fermati un attimo. Mamma, guarda, mamma. Sono un partigiano. E tu sei un cretino. Sei tanto cretino quando sei grande e grosso. Ma prima mi porti in casa un ragazzo armato e io gli devo fare da serva e da cuoca. Ma non basta. Attacchi con un discorso che più lungo e cretino non poteva essere. Ma non hai visto come ti guardava? Tu che ti sei ribellato all'ignoranza. Cretino! Ma sai che avevo paura che ti sparasse? Sì, che ti sparasse lì dove eri, con i gomiti sul tavolo mentre blateravi. Tu che sei tanto intelligente, ma lo sai come reagiscono questi ragazzi armati? Zitto, Esci fuori a richiamare il cane. Diresse verso un cumulo di neve, si sedette e posò lo stemma, estrasse un resto di giornale dalla tasca, ne ritagliò con le unghie un quadratino, poi iniziò la cerca di tutti i resti di tabacco in ogni tasca. A lungo estrasse e ammucchiò segmentini e atomi di tabacco misto a briciole di vecchio pane e fili di stoffa. Aveva ora nel palmo quanto bastava per una robusta sigaretta. Si guardò tutto intorno e intanto si stropicciava energicamente le mani, quasi volesse riscaldarle e snodarle per la successiva più delicata operazione. Cominciò a torchiare, ma le dita indirizzite rispondevano male. Non tennero la carta che si aprì ed il tabacco si perse nella neve. Si levò di scatto, gli occhi arrovesciati, il viso tutto grinzuto nella disperazione. Poi si disse: calma, non perdere la testa. Tanto non avevi nemmeno un fiammifero. poi volse le spalle al declivio e risalì. Guardandosi intorno ad ogni passo entrò nel ghiaccio e nella tenebra, nella mainstream del vento. L'acciaio delle armi gli ustionava le mani, il vento lo spingeva da dietro con una mano sprezzante e defenestrante. I piedi danzavano perigliosamente sul ghiaccio affilato. Si fermò e pianse. Tutto il pianto che aveva dentro per mille tragedie sgorgava ora per questa inezia. Pianse sfrenatamente e amaramente, coi piedi immoti sul suolo inaiutante. Ma ad un tratto, egli amò tutto quello, notte e vento, buio e ghiaccio, e la lontananza e la meschinità della sua destinazione, perché tutti erano i vitali e solenni attributi della libertà. Lo spettacolo Solitudine dal Teatro Partigiano di Beppe Fenoglio, adattamento Filippo Taricco e Beppe Rosso, diretto e interpretato da Beppe Rosso. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Nicoletta della sezione Ampi Villa Gordiani per presentare la terza edizione del festival Ottava Zona Memoria Est a Roma dal 17 al 27 aprile 2024. Ben trovata. Grazie Federico, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, è sempre un piacere. Raccontiamo di cosa si tratta. Quest'anno abbiamo anche voluto coniare un nuovo titolo per la rassegna in occasione dell'80° anniversario del rastrellamento del Quadrato. Quindi la rassegna si chiamerà Nidi di Vespe, la primavera della resistenza romana. Ottava Zona Memoria Est è una rete di associazioni, spazi sociali, sezioni ampi, istituti scolastici, studiosi, storici, storiche, insomma, dell'età contemporanea. Si tratta di una rassegna di eventi culturali che si svolgerà sostanzialmente nel quartiere Quadrato, ma con varie incursioni sempre all'interno del municipio quinto e settimo. Il municipio quinto che quest'anno, oltre a darci il patrocinio come nelle due precedenti edizioni, ha anche finanziato la rassegna. Quanti sono gli eventi da programma? Come sempre ci sono tantissimi eventi, sono oltre 15 eventi di diversa natura. Abbiamo come sempre delle presentazioni di libri, passeggiate per le pietre di inciampo dei quartieri, iniziative all'interno delle scuole che non solo sono state coinvolte nei progetti ma anche hanno offerto i loro spazi in orari extrascolastici. Abbiamo spettacoli teatrali, proiezioni di documentari, presentazioni di nuovi studi storici riguardanti la storia del quartiere e della sua attività antifascista e di resistenza all'occupazione nazifascista. Quindi il numero degli eventi e la tipologia è molto varia. Si dislocheranno più o meno, come dicevo, su tutto il territorio del Quadrato, ma anche coinvolgendo quartieri come Centocelle, Pigneto, Torpignattara, Villa Gordiani, il quartiere Alessandrino. Per quanto riguarda gli studi storici, su cosa vi siete indirizzati oltre all'80° anniversario e poi se ci sono anche novità? Per quanto riguarda gli studi storici, si parte sempre dalla storia locale, quindi appunto quella che riguarda il Quadrato e uno degli eventi fondativi del quartiere che è appunto il rastrellamento, ma che chiaramente come ogni piccola storia si inserisce nella grande storia, quindi vengono tutti ricollocati all'interno della grande storia e quindi anche del concetto di guerra totale che investe appunto il nostro paese soprattutto tra il 43 e il 44. Le novità in particolare sono, non posso anticipare tantissimo, però appunto riguardo proprio il rastrellamento sbrellamento, la deportazione degli abitanti del Quadraro, daremo visibilità anche a pubblicazioni meno note che fino ad ora sono rimaste nella memoria e nel circuito locale. Daremo spazio anche a esposizioni di mostre, proiezioni e reading. Abbiamo la fortuna di poter collaborare davvero con una rete molto vasta che comprende spazi sociali come le LSA Centocelle, come il Catare Garibaldi, come le tre sezioni di Ampi del quinto municipio, quindi Pigneto, Centocelle e Villa Gordiani. Abbiamo la possibilità di avere un contributo di studiose e studiosi del Festival Bella Storia Narrazioni di Strada, bellissima sinergia che ormai è piuttosto collaudata da circa 3 anni, che coinvolge associazioni locali, istituzioni locali, cittadinanza, quindi anche abitanti del territorio, quello tra il quinto e il settimo municipio. Si parte mercoledì con una bellissima passeggiata che coinvolge per esempio il CPA3 di Roma, quindi insieme a studenti, allievi e allieve stranieri faremo questa bellissima passeggiata tra le vie del Quadraro per riconnettere le storie del passato ai tragici eventi odierni, fino appunto alle presentazioni del Festival Bella Storia Narrazione di Strada, fino al cinegiornale di quartiere a cura di Teatro alla Lettera. Abbiamo un contributo veramente necessario e indispensabile di 2 artisti molto validi come Emiliano Valente e Daniele Miglio, associazioni che sono ormai presenti sul territorio da molti anni come l'Ecomuseo Casilino e il Quadracoro. Insomma, è una rete ormai piuttosto collaudata e sinergica che si muove con grande facilità su un territorio che, come quello del Quadraro, che è stato ribelle e in un certo senso insegna tuttora ad esserlo. Per il programma, tutti i riferimenti web? Tutto sulla pagina della nostra rassegna che si chiama Ottava Zona Memoria Est. Ci sono gli eventi su tutti i social, soprattutto su Facebook, dove abbiamo un macro evento che espone tutto il programma e poi all'interno di questo macro evento abbiamo creato i singoli eventi per ogni iniziativa. Terza edizione del Festival Ottava Zona Memoria Est a Roma dal 17 al 27 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Nicoletta della sezione Ampi Villa Gordiani. A presto! Grazie a voi, a presto! Con Mario Avagliano, coautore del libro Le vite spezzate delle fosse ardeatine, una presentazione a Roma, a Forte Bravetta, venerdì 26 aprile 2024. Ben trovato. Ben trovati a voi. Raccontaci di questo lavoro. Incredibilmente, a 80 anni di distanza dall'eccidio delle fosse ardeatine non si conosceva la vita della maggior parte delle vittime delle fosse ardeatine. A loro sono state dedicate strade, caserme, scuole, giardini e ultimamente anche pietre di inciampo, ma non si sapeva che cosa avevano fatto, perché erano in carcere. Quindi noi abbiamo sentito come un dovere morale ricostruire la loro vita in modo da riportarli in qualche modo alla luce da quelle cave ardeatine nelle quali erano stati rinchiusi. Come avete organizzato il lavoro? È stato un lavoro complicato perché di molti di loro si conosceva soltanto il nome, il cognome e a volte la data di nascita, che spesso era imprecisa addirittura nel comune di nascita, per cui abbiamo dovuto interpellare archivi comunali e chiaramente abbiamo consultato le schede che erano state redatte all'epoca dal medico Attilio Ascarelli, che aveva proceduto all'identificazione delle salme insieme ai familiari delle vittime. Abbiamo consultato poi gli atti dei processi del dopoguerra, il processo Kappler, ma anche i processi ai collaborazionisti fascisti, che spesso erano stati gli autori delle delazioni che avevano condotto in carcere i martiri delle fosse ardeatine. E quindi da questo insieme di fonti, più i biglietti, i diari che abbiamo ritrovato di alcuni dei martiri, è nato questo libro ed è nata la ricostruzione delle loro biografie. Siete riusciti a far luce su quasi tutte le vite delle vittime? Sì, restano soltanto 3 ignoti che ancora non sono stati identificati tra i 335. C'è il mistero di una vittima che risulta nelle carte di polizia di carcere, nato a Bolzano, ma di cui non abbiamo trovato nessuna traccia negli archivi comunali di Bolzano. Quindi per la maggior parte di loro abbiamo ricostruito la loro esistenza, e viene fuori un ritratto molto interessante dell'Italia dell'epoca e anche della resistenza, intanto perché è un ritratto intergenerazionale. Ci sono 33 giovanissimi tra i 15 e i 21 anni, allora la maggiore età era 21 anni, e ci sono 14 ultra sessantenni, il più anziano delle vittime è un 74enne. E poi ci sono tutte le classi sociali, imprenditori, banchieri, come operai e contadini. Infine il ritratto della resistenza plurale, perché è una resistenza che viene fuori non solo a tinte rosse, quindi comunisti, trotskisti, socialisti, ma anche ci sono democristiani, liberali, moderati e addirittura massoni, e una fortissima componente militare guidata dal colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo. Avete fatto anche alcune scoperte? Tante scoperte, personaggi appunto straordinari, anche personaggi stranieri, perché ricordiamolo, in queste 335 vittime sono rappresentate 18 regioni d'Italia, quindi quasi tutte, ma anche 9 stranieri. C'è per esempio la storia anche di un socialista ungherese, Sándor Kereszky, lotta per la libertà in Italia, ma anche per ritornare nella sua Ungheria, sognando un giorno di tornarvi in una nazione finalmente libera e democratica. E quindi ci sono tante storie toccanti, come quelle della famiglia di Consiglio e di Casso, che vengono interamente sterminate tra le fosse ardeatine ed Auschwitz. E ci sono anche storie d'amore, perché c'è lo studente Orlando Orlandi Posti, che scrive lettere e nel suo diario parole d'amore per la fidanzata Marcella. Quindi c'è coraggio, c'è il martirio, c'è l'amore per la patria, c'è l'amore per la famiglia. Davvero un caleidoscopio di sentimenti, di emozioni, che viene fuori dalle biografie di questi italiani che hanno dato la vita per la libertà. Una composizione di resistenti, ebrei, detenuti e civili. È interessante l'eccidio delle fosse ardeatine, anche perché, a differenza di altri due eccidi notevoli purtroppo per il numero di vittime, cioè quello di Marzabotto e quello di Sant'Anna di Stazzena, in quel caso le vittime sono civili. Invece in questo caso la maggior parte delle vittime sono partigiani o antifascisti, quindi è sicuramente l'eccidio simbolo della resistenza italiana. Non a caso il Presidente della Repubblica e il Papa sono andati più volte alle fosse ardeatine. Ma non solo è l'eccidio simbolo della resistenza italiana, ma anche una tappa, un episodio tragico della Shoah italiana, perché circa il 25% delle vittime sono ebrei, che sono stati arrestati per lo più per motivi razziali, anche se c'è anche qualche partigiano tra gli ebrei. Quindi davvero un eccidio simbolico della storia italiana, perché fra l'altro ci sono anche delle persone che sono state rastrellate nelle ore successive all'attacco gappista di Via Rasella, quindi dei civili che non erano né politici né ebrei, e ci sono anche dei detenuti comuni, perché nella fretta che caratterizzò l'organizzazione dell'esecuzione furono presi a caso anche dei detenuti comuni che erano in carcere né per motivi politici né per motivi razziali. Ricordiamo anche quello che è stato l'epilogo del processo a due dei responsabili dell'eccidio, ossia Erich Priebke e Karl Haas. C'è stato l'ergastolo, ma grazie proprio a una sollevazione popolare dopo la sentenza che li avrebbe mandati assolti. È stato un processo importante a metà degli anni 90 a Roma, perché ha sancito due punti fondamentali: la non prescrittibilità per i crimini di guerra e soprattutto la responsabilità individuale. Sì, già il processo Kappler era stato chiaramente un momento importante, nel quale intanto si era stabilito un principio importante, ovvero che la strage delle fosse ardeatine non è stata una rappresaglia legittima prevista dal codice militare, ma un atto terroristico da parte della Germania nazista. Poi Kappler, e su questo dobbiamo esprimere le riserve, era stato condannato non per la strage in sé, ma perché aveva di sua autonoma iniziativa aggiunto altri 10 condannati a morte dopo la morte del 33° soldato del battaglione Bozen, e perché aveva eliminato, insieme a Priebke, che controllava appunto l'elenco dei condannati a morte nel piazzale delle fosse ardeatine, i 5 in più che si erano ritrovati in quel piazzale nell'elenco della morte per errore, proprio perché volevano eliminare dei testimoni scomodi. Per quanto riguarda il processo PIP, che sicuramente è un'altra pagina nera, quella di dover riaprire soltanto a distanza di tanti anni il processo ai gerarchi nazisti, molti dei quali erano fuggiti all'estero, come il caso di Priebke, e solo dopo la scoperta del famoso armadio della vergogna, nel quale erano rinchiusi tutti i fascicoli delle stragi nazifasciste, che era stato nascosto, era stato addirittura murato nell'epoca della Guerra Fredda, per evitare appunto che si sollevassero responsabilità che poi potessero mettere in difficoltà l'Italia dal punto di vista della politica internazionale. E quindi sia il processo Kappes che il processo Priebke sono stati due momenti importanti dal punto di vista giudiziario per cercare di mettere i punti finali a questa vicenda. Il libro Le vite spezzate delle fosse ardeatine, una presentazione a Roma, a Forte Bravetta, venerdì 26 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento al coautore Mario Avagliano. A presto! Grazie a voi. Con Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette per presentare Feste d'altri tempi. In Valsamoggia al Teatro delle Ariette dal 25 aprile al 1 maggio 2024. Ben trovato. Benvenuti alle Ariette. Sono contento di sentirvi e sono contento di poter riparlare di questo nostro piccolo festival che facciamo da un po' di tempo. È una cosa che ci piace molto, festeggiare insieme queste due date importanti, il 25 aprile e il 1 maggio, e così anche quest'anno ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo organizzato una cosa che ci sembra interessante, che possa essere un momento di festa ma anche di riflessione, come ci piace fare. Com'era nato tutto? Prima del 2000, quando noi, lavorando su una versione di Antigone, cominciamo a incontrare dei vecchi ex contadini pensionati di Castello di Serravalle, comune rurale dove noi viviamo dal 1989. E lì scopriamo che erano stati partigiani, anche Gino che era stato deportato nei campi di concentramento, e quindi cominciamo a lavorare con loro su questa versione di Antigone, i fratelli che si scontrano, Eteocle e Polinice, uno da una parte, uno dall'altra, invasore, invaso. E così da questo amore per questo tema molto forte, che loro ci trasmettono anche, di questa resistenza vissuta proprio quotidianamente nelle colline, nelle case di campagna, della vita che loro facevano, cominciamo a festeggiare con loro queste feste che ci sembrava avessero perso in quegli anni un po' di smalto, ci sembrava un po' retorica, ma con loro abbiamo ritrovato un senso a questi festeggiamenti, per cui da allora, attorno al 2000, abbiamo cominciato a contribuire in qualche modo col nostro teatro a queste feste. Poi abbiamo dato una forma a questi festeggiamenti e di solito invitiamo tutti a un pranzo popolare autogestito, cioè nel senso che noi ci mettiamo un po' di cose, ma poi anche quelli che vengono, tutti gli spettatori e partecipanti, portano qualcosa da condividere con gli altri, si mangia attorno al teatro e poi nel pomeriggio assieme si gode degli spettacoli, di quella che è la bellezza dell'arte. Non necessariamente gli spettacoli sono legati a temi inerenti al 25 aprile, al 1 maggio, ma sono spettacoli di solito interessanti, che fanno anche riflettere, non sono soltanto intrattenimento. E quindi nasce da questo desiderio di festeggiare assieme attorno all'arte e alla cultura dei momenti di vita civile e sociale molto, ma molto importanti, soprattutto di questi tempi. Com'è stata la scelta quest'anno? Abbiamo un programma abbastanza articolato su tre giorni, 25 aprile, 28 aprile e 1 maggio, e abbiamo un arricchimento, a volte ci capita, a volte no, di avere anche un contributo musicale. L'ultimo appuntamento del 1 maggio con il coro femminile che si chiama Les Chemins des Femmes, un coro molto interessante perché è intergenerazionale e anche interculturale, parte dalla ricerca musicale e quindi sulla musica popolare, ma non soltanto, e mette insieme professioniste e non professioniste, quindi donne molto diverse. Cominceremo il 25 aprile con Giuseppe Cederna, che farà un viaggio Dentro il Mediterraneo si intitola Canto alla Terra, il suo spettacolo, Gli eroi e il Mediterraneo. Il punto centrale, il fuoco del suo raccontare e leggere sarà attorno all'Odissea, ma anche attraverso testi di altri autori, da Whitman a Bosch, e a sue narrazioni partirà da questo migrante per eccellenza, anche se forse proprio migrante non era. Ulisse era qualcosa di diverso dalla storia delle migrazioni di oggi, in fondo era un guerriero che ritornava da una guerra di conquista, sono storie molto diverse, però si porta dentro tutto il tema della scoperta, del viaggio e dell'ospitalità, questo spettacolo. Poi ci sarai tu, Federico, dopo lo spettacolo, perché parleremo del tuo libro autobiografico e storico, Quando il fumo si dirada, lo presenteremo di fronte al nostro pubblico, che non credo ti conosca, perché qui siamo a Bologna e non a Roma, ma sarà molto interessato di scoprire tutti i tuoi viaggi, non soltanto romani, e tutte le tue avventure. Poi il programma prosegue domenica alle 18, ospitiamo Luigi Dadina del Teatro delle Albe con il suo ultimo spettacolo che si chiama Saturno, figlio d'anarchia, racconta la storia di un ravennate, Saturno Carnoli, nel 2020 è morto, molto anziano, e che ha sempre avuto un fortissimo impegno civile, democratico per l'arte, l'artigianato, la cultura, e Luigi Dadina ha pensato, anche su richiesta di tutti gli amici di Saturno e in particolare della compagna, di provare a raccontarlo, e ha scritto il testo assieme a Cesare Albertano, e racconterà il percorso di Saturno a Ravenna e non solo, tutto il suo impegno a Ravenna e in Italia per la diffusione dell'arte e della cultura. E poi, come ti dicevo, per finire il 1° maggio, sempre dopo il pranzo popolare, gli spettacoli sono alle ore 15, dopo aver mangiato, ospitiamo Alessandro Berti con la seconda tappa della sua trilogia sulle bugie dei bianchi, si chiama Bugie Bianche la sua trilogia, e questo spettacolo si chiama Negri senza memoria, è un monologo, lui canta e suona anche molto, ha scritto questo testo partendo dall'idea di indagare le relazioni tra italo-americani e afro-americani, è partito da questa frase di un rapper nero del 2002, Chuck Nice, che diceva che gli italiani sono negri dalla memoria corta, e partendo da questa frase lui attraversa un secolo di storia e forse più, le immigrazioni italiane in America, il rapporto con gli afroamericani, per arrivare fino a Frank Sinatra, e questo viaggio è civile, culturale, politico e musicale. Tutti i dettagli sono sul vostro sito internet. Naturalmente, come dici tu, www.teatrodelleariette.it. Feste d'altri tempi a Castello di Serravalle, al Teatro delle Ariette, dal 25 aprile al 1° maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Pasquini. Ci vediamo lì! Ci vediamo lì, Federico. A presto a tutti. Ciao! Con Marlene Scalise, ideatrice e direttrice artistica dell'11ª edizione del Festival Riscarti a Roma, alla Vaccheria, dal 13 al 28 aprile 2024, ben trovata. Buonasera, grazie a tutti. Spieghiamo cos'è. 11ª edizione, quindi c'è tanta storia da raccontare, il Festival del Riciclo Artistico, che è appunto il festival dove le piccole cose scartate, gli oggetti obsoleti, esauriti, diventano delle magnifiche opere d'arte. Dunque lo scarto diventa la materia prima per la creatività. Quest'anno abbiamo opere e installazioni in mostra di circa 50 artisti che vengono da tutta Europa, e quindi sollecitiamo il pubblico a riconsiderare il valore evocativo degli scarti, sviluppando il loro potenziale inespresso, cioè diventano il punto di partenza per una riflessione, soprattutto nei confronti della tecnologia, che è il claim, il tema di quest'anno, intelligenza artigianale, e quindi ci confrontiamo con il futuro, chiedendoci se il futuro sarà appunto più artigianale o più artificiale, o in che modo, in che maniera possono incontrarsi. Com'è stata la scelta degli artisti e delle artiste? Abbiamo ricevuto tantissime proposte, quindi candidature. Abbiamo fatto una call aperta, gratuita, per tutti gli artisti appunto che volevano mettere in mostra i propri manufatti. E ovviamente perentoriamente devono essere fatti con materiali di scarto, quindi disassemblabili, senza creare rifiuti speciali, ovvero utilizzando colle e materiali inquinanti, ma anche per esempio decontestualizzando un oggetto dalla propria funzione, quella per cui era stato immaginato e creato, e quindi ribaltando un po' la prospettiva, l'etica e l'estetica che vanno a braccetto per promuovere una cultura della sostenibilità. Ne abbiamo selezionato circa 50, quindi sono tantissimi, un bel compendio di opere d'arte, cioè chi usa le bottiglie di plastica, chi usa la carta, chi le bustine del tè, chi i cartoni degli imballaggi Amazon, e vengono questi materiali così poveri, nobilitati e diventano delle piccole meraviglie sostenibili. Come è organizzato il festival nell'esposizione di questi 50 artisti nello spazio della Vaccheria? La Vaccheria è uno spazio appunto di rigenerazione urbana, voluto insomma con molta decisione dal nono municipio che lo gestisce anche in maniera collettiva e partecipata, ci sono dei volontari e c'è il nono municipio. Quindi ci accolgono per il secondo anno, è un casale grandissimo, diafano e ampio, ecco, con queste vecchie mangiatoie per le vacche, inserito all'interno di un contesto di un parco naturale che si chiama il Parco del Castellaccio. Quindi arrivando alla Vaccheria, all'EUR, il nostro quartiere del contemporaneo, vi offriamo un percorso gratuito attraverso appunto le 50 installazioni presenti a Riscarti. C'è una sezione a parete, una sezione aerea, una sezione dark, quindi uno spazio buio, dove ci sono appunto viaggi, giochi di ombre e luci, e poi c'è una sezione anche audiovisivo. Come sono organizzate le giornate? Il Riscarti è un festival per cui non è solo una mostra, ma ci sono moltissime attività collegate. Diciamo che il Riscarti è una scenografia e un contenitore per fare rete con altri appassionati e professionisti del mondo green. Il festival è iniziato il 13 con una bella performance di prospettive musicali che dà voce al suono delle piante, quindi un DJ set che utilizza le piante. Adesso ci stiamo invece facendo laboratori con le scuole, in particolare il laboratorio di seedballs, cioè delle palle d'argilla e semi che poi appunto con delle sonde lanceremo nel parco circostante, e ogni settimana ci sono dei talk, dei laboratori o delle performance. Per esempio l'ultima giornata, che è quella con il premio Radio Rock, che ormai è alla quarta edizione, quindi la radio premia l'opera più rock e più sostenibile, avremo la performance di Lot, che è una attivista del clima, con il suo spettacolo teatro musicale. Tutti i riferimenti web per il programma? Il programma è molto, come dicevo, articolato, intenso. Ogni giorno c'è la possibilità appunto di partecipare ad un'attività, anche la stessa visita guidati dagli artefici, quindi dagli artisti che hanno esposto le loro opere, si trovano sul nostro sito www.riscarti.com oppure sui nostri canali social Facebook e Instagram. Undicesima edizione del Festival Riscarti a Roma, la Vaccheria, dal 13 al 28 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice e direttrice artistica Marlene Scalise. A presto! Grazie a te, Federico. Con Diego Labonia, direttore artistico dell'ottava edizione del Festival Roma Local Brightness a Roma dal 12 al 30 aprile 2024. Ben trovato. Ciao a tutti, agli ascoltatori, e ciao Federico. Per chi non lo conoscesse, descriviamo cos'è. RGB è un festival sulla light art che ha iniziato, insomma, questo percorso cittadino a Roma nel 2015. Siamo arrivati all'ottava edizione, sono 12 installazioni disseminate per un percorso indoor e outdoor. Una parte sono gratuite, una parte sono a pagamento. C'è un abbonamento da pagare di 6 euro il primo anno che diciamo, questa impresa del biglietto, ma non potevamo non farla visto che volevamo essere sostenibili, diciamo, ecco. Quindi questo è un po' la particolarità di quest'anno. Ci sono artisti italiani, artisti romani, internazionali, due venute dall'estero, uno è un italiano che vive a Berlino e presenta una sua opera, e l'altro è Yasuo Yoshida, che chi ci conosce già ha le sue opere in altre due edizioni, e questa è la terza edizione dove presenta un'opera, e poi in modo totalmente estemporaneo ha creato un'altra opera esclusivamente per il festival, molto site specific. Come si caratterizza l'edizione di quest'anno? Intanto per il periodo, perché noi solo facevamo a dicembre, quest'anno aprile, quindi proprio un momento pure temporale molto diverso dai freddi inverni, quindi siamo su una primavera inoltrata, quindi da quel punto di vista l'aspetto climatico è sicuramente molto diverso e anche migliore. Visto che facevamo la call, quest'anno appunto non sapendo quando andavamo in onda, abbiamo deciso di fare più a chiamata, era più gestibile per noi, e quindi abbiamo chiamato artisti della scena romana che liberamente, sia su opere che già sono state estratte in altri posti, però poi vengono elaborate sempre con lo stesso spunto, però in modo più site specific. Questo un po' tutti gli artisti si adattano poi ai nostri spazi, che sono molto inconsueti, sia quelli all'esterno che quelli all'interno. Per quanto riguarda poi l'aspetto proprio delle location, sono alcune storiche nostre, come Arena Aurora, come il parcheggio dove facciamo appunto le proiezioni sulle pareti cieche di quel parcheggio su via del Pigneto. Abbiamo sempre lo spazio Impero, che ospita ben due installazioni, una che già abbiamo fatto qualche anno fa, che abbiamo voluto riportare perché in questi anni nessuno poi aveva proposto un'installazione con questa gru, e quindi abbiamo detto vabbè, rifacciamo l'installazione dei Mediamash, che comunque è molto bella, interessante e ci piaceva, e quindi la riproponiamo, anche perché speriamo di avere un pubblico cresciuto in questi anni, che loro appartengono alle prime edizioni, quindi potrebbe essere interessante anche chi l'ha vista rivederla, perché comunque è sempre molto emozionante. Dicevi che quest'anno c'è stata una chiamata diretta, ecco, com'è stata la scelta artistica? Fondamentalmente è stata su artisti che conosco personalmente, e devo dire alcuni ho inseguito per parecchio tempo, e quest'anno per fortuna Alessandro Lupi è uno di questi, che poi per varie coincidenze, insomma, lui come artista lavora parecchio, quindi i suoi impegni e i nostri tempi erano sempre variabili, non riusciamo mai a incastrare la sua venuta qua al festival. Quest'anno per fortuna ci siamo riusciti, che ha fatto anche lui due installazioni, una all'Arena Aurora, Fragment of Reality, e un'altra invece dentro uno spazio che ci ospita, dei ragazzi di Sowall, dove presenta i bauli, chiamano così, sono due bauli. Lui è stato un po' il nostro simulatore anche per questo festival, perché una volta che si erano le stelle congiunte per farlo arrivare qua, a quel punto ci siamo anche mossi su altri fronti, e anche Yasuhiro, che per fortuna si trovava in Europa, l'abbiamo dirottato qui su Roma e ci ha proposto appunto prima un'installazione e poi ne ha aggiunta un'altra, visto che stanno 10 giorni qua per ritornare in Giappone. In Malombra lavorano sempre con le ombre e avevano questo progetto nuovo che stanno sperimentando e che stanno portando avanti, e quindi ignoro. E poi vabbè, anche io faccio una piccola installazione da Magma, che è sempre un altro spazio che ci ospita, che si chiama Ecstasis, che avevo già fatto 2 anni fa, e poi al Blooming Festival a settembre. Poi c'è un altro spazio che ci ospita, sempre molto interessante, che è quello che prima era l'ex sala consiliare, e lì ci saranno un salottino dove c'è un divano, dove ci sarà un televisore, dove si potranno ascoltare questa docuserie giunta alla seconda stagione sugli artisti della Light Art, un progetto di Luces, che è una rivista specializzata, e del Politecnico di Milano nel settore design. Tutti i riferimenti web per il programma? C'è il sito www.rgblightfest.com, ovviamente ci trovate sempre come RGB, cioè come Roma Global Brightness, su Facebook e su Instagram. In questo lungo periodo, che è appunto un po' la particolarità anche di quest'anno, che stavo scordando questa cosa temporale, di una tenuta lunga che non abbiamo mai fatto, perché di solito avevamo 3 giorni, massimo abbiamo fatto 4, e quindi abbiamo voluto sperimentare questa tenuta più lunga, dal 12 al 30, con 5 installazioni fisse, e poi ci sono appunto il weekend clou, che è 19, 20 e 21, quindi si aggiungono anche le altre 7 installazioni. 8ª edizione del Festival Roma Global Brightness a Torpignattara, dal 12 al 30 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Diego Labonia. A presto! Ciao a tutti, grazie, vi aspettiamo. È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana, soprattutto di teatro, ma anche eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ed eccola, eccola l'agenda, ci siamo, andiamo subito in corso d'opera perché partiamo dal nostro teatro per Bellamone, questa è una settimana in cui restano molte produzioni già della precedente settimana, quindi tendenzialmente abbiamo poco di nuovo, ma insomma è un modo anche per andare a recuperare ciò che ci è rimasto un po' indietro dai giorni passati. Allora, 28 aprile, tutta la settimana per questo lavoro al Teatro Tor della Monaca, che appunto apre la nostra settimana, che si chiama Trilogia di Vendetta e Morte. La regia di Nello Pepe, il titolo è Sono sul fuoco, crea un po' di terrore. In scena ci sono Maria Cristina Fioretti e Maria Pia Iannucci, due donne. In realtà le donne sono tre, non in scena, ma sono tre le donne dei tre monologhi che hanno a che vedere col tema della morte, dell'ingiustizia. Sono tre donne vittime di violenza che raccontano la propria storia e esplorano questa esperienza di fronte al dolore e alla tragedia. Quindi 23-28 aprile, Trilogia di Vendetta e Morte al Teatro Tor Bella Monaca. Stesso teatro, ma una tre giorni, da venerdì a domenica. Questo lavoro di Enrico Maria Falcone, che lo interpreta insieme ad altri attori, lo scrive e lo dirige, si chiama Malacarne. Si tratta di un racconto di due fratelli che tornano a convivere insieme, ma l'attualità vissuta ora non riesce ad arginare il passato, che riporta un po' tutto a galla, no? Come succede al mare. Ecco, Malacarne. È probabilmente il legame familiare che li collega, li lega, li tiene insieme loro malgrado. Malacarne, 26-28 aprile, Teatro Tor Bella Monaca. Andiamo poi al teatro, Biblioteca Arcipelago Auditorium, alla Montagnola, luogo nuovo, per un vecchio lavoro in realtà, la regia di Giampiero Rappa, che probabilmente abbiamo anche in archivio, se non vado errato, ovvero sia Albania, casa mia, il diario di un ragazzo albanese, interpretato infatti e scritto da Alexandros Memetai, che dopo solo 200 repliche ancora va in scena tra le 19 di venerdì 26 aprile, questa biblioteca Arcipelago Auditorium di Roma. Per informazioni più precise invito ad andare sul sito di Twain, il centro produzione Twain, che magari potrebbe dare qualche indicazione in più su luoghi e modalità, insomma, di partecipazione. Segue, cioè lei che segue, seguiamo noi con l'altro teatro studio, Alessandra Schiavoni scrive e dirige questo Alice, Sica Morti Company, questo vecchio nome, insomma, di produzione che ci torna un po', l'abbiamo trovato un sacco di volte questa produzione. Alice è un dramma che esplora i confini tra vendetta e perdono, mettendo in scena il conflitto tra due donne, ancora qui due donne, due madri però in questo caso, Emma al centro della storia, il cuore spezzato dalla tragica morte della figlia Alice, questa morte violenta, della quale lei ritiene responsabile l'ex fidanzato appunto Alex. È quindi una storia che ritorna anche in questo il tema del femminicidio, insomma ritorna in questa nostra tornata settimanale. 26-28 aprile al Trove Teatro Studio per Alice. Segue poi torna in scena Massimo Odierna con il suo Signorotte al Teatro Lo Spazio 26-28 aprile, è una settimana ancora un po' corta perché c'è il 25 aprile che insomma sarà il main event, come si dice insomma nella TV americana, di questa settimana, un po' per tutti sicuramente lo è per questa radio e indubbiamente, cioè, quindi il teatro un po' si ferma, c'è il passo e magari dal weekend insomma si concede una tre giorni. Al Teatro Lo Spazio Signorotte, una tragicommedia dalle tinte rosa, insomma sono tre amiche, Ada, Ida e Beta, ormai più che cinquantenni, precisamente sono Viviana Altieri, Elisabetta Mandalari e Sara Putignano, che si ritrovano dopo tanto tempo in occasione del funerale del marito di una delle tre. E chissà insomma cosa si diranno. 26-28 aprile, Teatro Lo Spazio. Seguo perché questa settimana al Teatro India debutta una produzione del Teatro dell'Elfo firmata da Nicola Russo, e autore e regista insomma questo lavoro, che si chiama Cristoforo o Il posto dell'elemosina. È un lavoro insomma che chiaramente è attorno ai temi dell'accoglienza, della solidarietà. Cristoforo è un barbone, clochard, perché i francesi quando trovano i termini poi sono meglio dei nostri, che chiede l'elemosina per le strade appunto di Parigi, beh, quindi appunto aveva maggiormente senso, insomma, e vive una condizione di solitudine e si interrompe quando incontra Nicola, giovanissimo, e inizia a avere due uno scambio epistolare, quindi molto bello, dal 24 al 28 aprile, teatro India, quindi un tema che ci può essere caro. Seguiamo ancora con il femminile, Teatro Curio Camillo, 25-28 aprile, questo DATE, femminile non conforme, rassegna multidisciplinare al femminile, ci saranno spettacoli, insomma, performance e mostre come mostra Donna Daria, una mostra di fotografia, insomma, che racconta i corpi delle donne, e a Teatro Curio Camillo invito, insomma, ad andare a vedere meglio il programma, perché ci sono vari appuntamenti tutti i giorni dal 25 aprile fino a domenica 28, quindi assolutamente da andare a controllare, soprattutto appunto in una settimana in cui c'è magari un po' di meno. Ancora dunque, per il Teatro Trastevere, dove Riccardo Tabilio con la regia di Alessandro De Feo presenta questo Leviatano, in scena di Agomigeni, Stefano Patti, Gioele Rotini, un cittadino statunitense, MacArthur Wheeler, nel 95 decide di rapinare una banca della sua città, in pieno giorno, molto scoperto. L'episodio ha ispirato una ricerca scientifica sulla stupidità umana da due studiosi del Cornell University, e questo è un po' il tema dello spettacolo dal 24 aprile al 5 maggio, quindi per un bel po', resta solo due settimane a Teatro Trastevere, Riccardo Tabilio. Segue ancora Teatro Tordinona, perché dal 25 al 30 aprile Luigi Moretti dirige e interpreta questo testo di Fiammetta Carena, che si chiama Ulisse Macerata, e racconta di Ulisse, un comune uomo di provincia incattivito dalla vita e dalle sconfitte, che pensa cose orribili, e insomma inizia un viaggio tra il delirante e l'onirico, come una sorta di Ulisse contemporanea, ma Ulisse un po' volgare e ottuso, insomma, che diciamo non proprio va verso la conoscenza come l'Ulisse omerico. Dal 25 al 30 aprile al Teatro Cordinona, Ulisse Macerata, credo proveniente da Macerata. Teatro Marioli, ultimissimo per ricordare, Mascia Musi, che presenterà il 24 al 28 aprile Anna dei Miracoli, questo testo di William Gibson con la regia di Manuela Giordano, mentre ci preme ricordare ancora che restano in scena al Teatro Basilica di Magnadieri, al Teatro Ambra Iovinelli, Cirano di Arturo Cirillo, di Chiare Sinisi, mentre Antonio Latella presenta la Lucandiera invece a Teatro Argentina. Ultimo invece appuntamento, sempre Teatro India, Valentina Esposito scrive e dirige questo Destinazione Normana, lo spettacolo della compagnia Fort Apache, contenuta da attori ex detenuti e oggi professionisti. Quindi sarà uno spettacolo per molti, molti attori, in scena per tutta la settimana dal 23 al 28 aprile. Sette cavalli da corsa geneticamente difettosi condividono forzatamente la vecchiaia in attesa della macellazione. E c'è un gioco scenico chiaramente tra la vicenda delle bestie, che chiaramente ha a che vedere con anche la questione legata al carcere, alla responsabilità rispetto alle scelte maturate nel corso della vita. Ricordo che Radio Onda Rossa, insomma, verso il carcere ha una posizione ben chiara, e quindi insomma questi spettacoli sono anche importanti per ribadirla. Dal 23 al 28 aprile, Destinazione Non Umana, nel nostro caso, per cercare di renderla più umana possibile. E con questo è tutto. Ciao! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.